diretta su CRM Happy Radio I mitici anni con Jerry e Tony. Ed eccoci qua, buonasera a tutti e bentrovati, siete rigorosamente in diretta su CRM Happy Radio all'interno dei mitici anni insieme a Jerry e insieme a Tony. Buonasera Jerry. Eccoci qua, io non solo vado in radio il pomeriggio ma anche la sera, quindi sarete in compagnia della mia voce anche di sera, di domenica sera appunto, dalle 20 sino alle 22 vi terremo compagnia con la bella musica degli anni 70, 80, 90 che diciamo hanno fatto la storia vera della nostra, della musica appunto. Giusto Tony? Sì, esatto. Allora ricordiamo intanto i nostri numeri di telefono naturalmente per chi ci volesse contattare, volesse interagire con noi, fare anche una richiesta, come dico sempre al solito, anche un semplice saluto. Ricordiamo il 335-56-37-251 e ancora lo 0921-92-32-92. Vi ricordo che potete seguirci in diretta streaming sul nostro sito che è www.crmhappyradio.it oppure ancora sul nostro portale Facebook, giusto? Giustissimo, hai detto tutto tu adesso. Ho detto tutto io, no, un'altra cosa devo dire, che se ancora non siete tra i nostri contatti basta andare su Facebook, cliccare scrivere CRM Happy Radio, cliccare mi piace, così anche voi entrerete a far parte della nostra grande famiglia di CRM Happy Radio. E tu l'hai fatto? Come no, certo, come no. Bene. Quindi dobbiamo raggiungere oltre più di 6.000 fan, quindi mi raccomando cliccate. E allora noi cominciamo, diciamo di cominciare, sono le 20.08 e cominciamo con un gruppo bello, tosto, grande carica, grande energia. Arrivano loro, Europe con Rock the Night. You know it ain't easy. Ed eccoci qua, siete sempre in diretta su CRMP Radio all'interno di naturalmente i mitici anni e appunto con insieme a me, insieme a Jerry, insieme a Tony vi terremo compagnia sino alle 22 sempre con tanta bella musica degli anni 70, 80, 90 quindi la musica che ha fatto proprio grandi poi insomma grandi successi che noi rimetteremo, insomma vi faremo riascoltare questa sera, appunto ogni domenica sera, sempre a partire dalle 20 alle 22. Tony, allora... Esatto. diciamo che tu sei più un esperto, cioè più esperto di me, perché comunque io sono una fanciullina, sono sono piccolina, diciamo, questo è più un tuo, il tuo genere, ecco, i tuoi anni. Quindi tu devi darci un po' più le notizie, sì. Bene, cercherò di dartele, dai. Ma sì. Farò il possibile. Ricordiamo ancora una volta i nostri numeri di telefono per chi volesse interagire con noi, per chi volesse fare una dedica, una richiesta o una canzone particolare, magari di quegli anni che gli ricorda qualcosa di particolare, una storia d'amore, può essere un giorno particolare, non lo so, fate voi, fatevi sentire, io vi do i numeri, comincio a darvi i numeri come faccio al solito, il 335-56-37-251 e ancora lo 0921-92-32-92. Vi ricordo che potete seguirci in diretta streaming sul nostro sito, che ormai penso lo sappiate a memoria, crmpradio.it, o ancora su Facebook. Quindi potete, noi siamo qui, aspettiamo vostre news, vostre notizie. La prossima canzone che hai preparato per questa sera, Tony, qual è? Bellissima. Sì, dobbiamo fare. Mi ricorda qualcosa. Un film bellissimo. Sì, dimmi quale film. Flashdance. Oh mamma mia, come no? Questo me lo ricordo bellissimo. Lei è una ballerina grandiosa. Allora non sei proprio piccola, dai. No, ma io ho studiato alla fine, capito? Io sono piccola, però sapendo che insomma dovevamo andare in onda, no? Ho deciso di studiare. Bene. Comunque Flashdance è un film cult praticamente che piace rivedere. Maniac. Conosco il titolo della canzone, insomma, quindi che metterai adesso? Esattamente. E quindi non ci resta che fare praticamente che andarlo ad ascoltare. Certamente. E andiamo allora. Time, girl, on the side of the night, looking for the fight. liking a dolce vita. This time we got it right. We're living like in a dolce vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a dolce vita. With lights and music on. Our love is made in the dolce vita. Nobody else than you. Insieme a voi, bella questa canzone, devo dire molto molto belle, comunque pur essendo un po' di qualche anno fa, devo dire che comunque tuttora si ballano, si riascoltano con piacere, no? Sì. Poi so, tu li metti sempre praticamente queste canzoni, ormai sono diventate... la musica mi gira sempre in macchina. Ma no, non l'avevamo capito, ma anche quando... Sì, li metti sempre, quindi giustamente, ovviamente, abbiamo deciso di condurre un programma appunto su questi mitici anni 70, 80, 90, che devo dire piacciono parecchio. Ricordiamo ancora una volta i numeri per le vostre dediche, il 335-5637-251, lo 0921-92-3292 e poi ancora andate su Facebook e cliccate mi piace sulla pagina di CRM, così anche voi entrerete a far parte della nostra grande famiglia, della nostra community, e così Simone sarà contento. Ciao Simone. E va bene. La prossima, Tony, quale mettiamo? Quale hai in mente per noi? Ma... direi che torniamo ancora indietro col tempo. Quanto indietro? Magari andiamo sugli anni 70. 70, specifichiamo sì. Quindi bene esattamente l'anno, quindi 70. Eravamo sugli 80. 70-80. Infatti. Ah, prima eravamo sugli 80, sugli 80, adesso 70. Adesso siamo sul 70. Sì, questo 70, 80, 90, mamma mia. Possiamo giocarceli comunque, dai. Sì, amici, andateveli a giocare. Perfetto, 70, 80 e 90. Sì, magari un terno secco. Sì, vabbò. Bene. Allora, la prossima l'annunciamo, che dici? L'annuncio? Sì, sì, sì, te la lascio annunciare a te, dai. Allora arriva Le Freak. Sei chic. Sì, sì. La musica più bella di tutti i tempi è su CRM con Jerry e Tony. didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams, it seems as if it's meant to be. Questa canzone Richard Sanderson Reality ricorda il fantastico film, appunto, Il tempo delle mele. Reality, diciamo, diamo qualche chicca anche, no? Anche conosciuta erroneamente con il primo verso del ritornello Dreams Are My Reality, una canzone quindi del 1980 scritta da Vladimir Kosma e Jeff Jordan, registrata dal cantante britannico Richard Sanderson per la colonna sonora del film francese, appunto, Il tempo delle mele. Tra l'altro, ricordo, con gli attori Pierre Cossot, grande Pierre Cossot, bello, proprio bello, e Sophie Marceau, molto. Me lo immaginavo. che facessi il complimento a Pierre Cossot. Certamente. è un bell'uomo, è giusto. È giusto farlo, bello. Beh, e bello e bravo. Ognuno i suoi gusti. Ognuno i suoi gusti. E inoltre, in seguito all'enorme successo europeo del film, anche reality ottenne una notevole popolarità, riuscendo ad arrivare al primo posto in 15 stati, vendendo 8 milioni di copie in Europa e in Asia. Reality poi diciamo che rimarrà per alcuni anni un classico della musica pop sentimentale, ma ciò nonostante Sanderson, che fu scelto anche per la colonna sonora del Tempo delle Mele 2, non bissò mai più l'enorme successo del brano, diventando comunque un clamoroso esempio di One Hit Wonder. Questa canzone è sempre bella da ascoltare. Il film ultimamente devo dire che lo mandano in onda spesso. Io vado a guardarlo, pur non essendo della mia generazione, perché voglio dire, io sono piccolina. E quindi vado con piacere ad ascoltarlo, a vederlo. Vado a guardare soprattutto Percosso. Ah, ecco, c'era qualcosa. Hai capito? Appunto, sì, certo. Hai capito. E allora, la prossima canzone che hai intenzione di farci ascoltare, di far ascoltare ai nostri amici, sempre rigorosamente ricordiamo in diretta su CRMP Radio all'interno dei mitici anni 70, 80, 90, che potete ascoltare solo qui da noi, naturalmente. Cosa intenzione? Cosa ci fai ascoltare, Tony? Cosa? Ma andiamo, rimaniamo in tema. Rimaniamo sì? negli anni 80. Vediamo. Lo scopriremo. Quindi state fermi lì, vediamo cosa ci prepara Tony. Infatti, dai. Andiamo, vai con la prossima. bene bene anche questa canzone, devo dire, è carina. A me piace, io lo, tra l'altro me la ricordo, nel senso che comunque è una canzone conosciuta, appunto. Africa si chiama, dei Toto. Infatti, giusto? Sì, Africa Toto. Africa. Vogliamo, diamo qualche notizia anche su Africa per chi per gli appassionati, o anche per chi non conoscesse comunque questo genere, questi anni, questi mitici anni, appunto. Questo è degli anni 80, credo. 80, 83, 84. Ho azzeccato. Appunto, diciamo che è un singolo del, esattamente del 92, del gruppo rock Toto, estratto dall'album Toto Quarto. La canzone è stata scritta dal tastierista della band, Dave Page, e il singolo, diciamo che ha raggiunto la testa della classifica Billboard Hot 100 nel febbraio del 1983. E il ritornello della canzone è una metafora che vuole rappresentare l'amore dell'autore per la sua donna. Il brano Africa appare anche in episodi di alcune serie televisive come American Dad e in alcuni videogiochi. Diversi artisti, diciamo, hanno reinterpretato il brano in altre chiavi, tra questi Carl Wolf, Liaz e Jason Derulo. È stato molto campionato nell'ambito della musica hip hop in New World dei rapper Nas e più recentemente in Q Newton di Wiz Khalifa. Quindi abbiamo dato anche la notizia su questo singolo, quindi Africa, del 1982, del gruppo appunto rock Toto. Bella, bella questa, bella. Bellissima, direi. Diciamo che tutta la musica comunque, per chi ama la musica, è più un appassionato, la musica è tutta bella, quindi dagli anni 70, 80, 90, quelle diciamo più recenti che comunque ascoltiamo, che faccio, vi faccio ascoltare io durante il pomeriggio, perché io metto, sai cosa metto? Di solito mi piace anche mettere quelli da disco, certo, proprio quelli a palla. Naturalmente accontentando anche le richieste dei nostri radioascoltatori. Quindi se anche voi, no, aveste una canzone particolare da farci, da volere riascoltare, noi siamo qui appunto apposta per quello. Io vi ricordo allora i numeri di telefono per poterci contattare, per poterci raggiungere, o anche, perché no, come dico al solito, per un semplice saluto. Il 335-5637-251, lo 0921-92-3292. Vi ricordo che potete seguirci anche in diretta streaming sul nostro sito, che è il www.crmpradio.it, o ancora su Facebook, ricordandovi che dovete andare a cliccare proprio mi piace. mi piace. esatto. Non mi piace. Sì, vabbè. Qual è la prossima che è in programma per oggi, per questa sera, questa domenica sera? No, a sorpresa no questa volta. No, dimmi, dici, voglio sapere il titolo, su, vediamo. Beh, sempre anni 80. Rimaniamo sugli 80, questo ce lo dobbiamo giocare, comunque. Sì, sicuramente. Qual è, Tony? Dimmi. Reggae Night, andiamola ad ascoltare allora. Live on the love, so turn on the light, make it shine bright. And listen to this. Jam it. Reggae night, we come together when the feeling right. Reggae night, and we'll be jamming till the morning. Just call, got to get my things, got to catch this ride. Gotta look my best, cause I know they'll be mashing it up tonight. Oh, reggae night, we come together when the feeling's right. Reggae night, and we'll be jamming till the morning. Rockin' jammin' fun, love, yeah. Reggae night, we come together.

La musica più bella di tutti i tempi è su CRM con Jerry e Tony. Eccoci qua, siamo tornati in studio, siete sempre in diretta su CRMP Radio all'interno di I Mitici Anni, questi mitici anni 70, 80, 90. Abbiamo appena ascoltato la Sandy Martin con People from Ibiza, tra l'altro, che devo dire va sempre bellissimo, brano. Diamo anche qualche notizia un po' su Alexander Sandy Martin, cantante croato divenuto famoso soprattutto appunto nel genere musica italo disco degli anni 80, appunto. Scoperto da Claudio Cecchetto nel 1983, esordisce con il suo primo singolo Ok Run, prodotto dallo stesso Cecchetto e che sarà poi utilizzato come jingle della pubblicità della console di videogiochi. Ma fu soprattutto l'anno successivo che arriva il grande successo appunto per questo cantante con il brano Disco Dance, People from Ibiza, appunto, che abbiamo appena ascoltato in testo inglese. Questa canzone fu talmente di successo che fu utilizzata dall'ente locale per la promozione turistica di Ibiza stessa, quindi in Spagna. Negli anni 80 è fra gli ospiti più assidui del Festival Bar e nel 2005, lo ricordiamo, partecipa alla terza edizione del reality show L'Isola dei Famosi su Rai 2, ma poi fu costretto, insomma, a ritirarsi per problemi di salute. Io ho visto quell'anno lì e devo dire, faccio, ma chi è questo qui? E poi ho scoperto che era Sandy Martin, quindi il cantante famoso di People from Ibiza. Si sa poco di lui, della sua vita privata. Comunque oggi partecipa spesso a numerose serate organizzate in occasione di feste locali, in particolare quelle della Riviera Romagnola, cantando quindi i suoi più grandi successi come la Paloma Bianca, Camel by Camel, Exotic and Erotic. Però non possiamo dimenticare, vero, c'era quella, hai visto, hai visto. E non possiamo comunque dimenticare People from Ibiza, che è quella che comunque lo ha consacrato, lo ha reso celebre, lo ha reso quindi famoso. Visto? Viste quante notizie abbiamo? Brava. Mi sono preparata, bene. Ho studiato giustamente per dare le giuste notizie ai nostri amici che appunto sono appassionati di questo genere, questi anni, insomma, gli anni 70, 80, 90, e quindi è giusto anche ricordare e vedere un po' cosa hanno fatto, che fine hanno fatto questi gruppi, questi cantanti che comunque hanno fatto veramente la storia della musica, no? Che infatti, dici? Infatti, sì. Sono giusto. Perfettamente d'accordo. Bene. E allora, qual è la prossima canzone che invece ci hai preparato? Beh, allora, io direi appunto non lo so. Non lo so. Aspetta, vediamo. Una casaccia. Una casaccia, dai. Qualcosa vorrei dire. Secondo me ti piace tantissimo. Dici? Sì, vediamo. Sì. Ascoltiamola e vediamo se mi piace. Succede, vediamo. Falla partire, vediamo. vediamo. E come no, la conosco, sì. Paradise, you kiss me while

morning I was feeling fine, but this cat's house banging, man, what a swine. So I called reception, but to no avail. That's why I'm telling you this sorry tale. It went bang, I said shut up. It went bang, I said wrap up. Well, I'm aware that the guy must do his work, but the part of a man drove me berserk. He said captain, I said what? He said captain, I said what? To the west, where the girls are like most are the ones undressed. Well, hello, Adam, where you been? I said, stand aside, cause I'm a feeling mean. I had a gut full of you and I'm a feeling bad, but you're an ugly old pirate and ain't I glad? He said, captain, I said, what? He said, captain, I said, what? He said, captain, I said, what? He said, captain, I said, what you want? Qua Captain Sensible, what? Praticamente il vero nome è Raymond Burns, giustamente è conosciuto come Captain Sensible. È un cantante, chitarrista, compositore ed è occasionalmente anche bassista inglese, cofondatore assieme a Rat Scabies del gruppo punk Rock the Diamond. Dopo aver lasciato il gruppo nel 1984, Captain Sensible ha intrapreso una carriera da solista pubblicando 7 album e poi nel 2006 ha anche fondato un partito, il Bluff Party, dopo essere stato precedentemente membro del Green Party. Hai capito quante cose Captain Sensible fa? Sì, sì, sì, infatti. Bene, bene. Qual è il prossimo brano? Allora, che... il prossimo brano si tratta di Paris Latino. Sì, dai, bella questa. Ti piace? Come no? Allora... Ma ancora si balla comunque, dai. Ma sì, ma tutta infatti... questa musica comunque si ascolta e si balla, sì. E si continua a ballare. Andiamo avanti. Andiamo. Bandolero. Bandolero, vale, bandolero, vale,

the rising of the sun. Love is in the air, and the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and that's there when I look in your eyes. Tomorrow, so I guess I'll just believe it. Tomorrow never Laura Branigham con Self Control. Devo dire anche questa è una bella, bella, bella canzone che ancora tuttora si ascolta. Diamo qualche notizia anche sulla cantante, su Laura Branigham, che tra l'altro è nata in una famiglia con origine irlandesi ed italiano. Già, quindi c'è l'italiano, l'Italia in lei. Nella sua carriera ha prodotto 20 singoli e alcune colonne sonore di pellicole cinematografiche, tra queste è famosa la versione inglese di Gloria, cover del successo del grande Umberto Tozzi. Con il brano Imagination è presente nella colonna sonora del film Flashdance del 1983. Ha interpretato anche il brano Self Control che abbiamo appena ascoltato, portato al successo dal mitico e grande Ruff nel 1984. La sua canzone Hot Night è presente nella colonna sonora ufficiale del film Ghostbuster del 1984. Ha anche interpretato piccoli ruoli in note serie televisive come Outman e Chips. Vi ricordate Chips, quei due poliziotti sulle motociclette? Sì. Tu le ricordi? Sì, me le ricordo benissimo. Come? Poncerello. Sì, sì, sì. Bene, cioè proprio io li seguivo, sì, sì, in effetti mi piaceva più l'attore. Peccato che non ci sono più, dai. Sarebbe bello rivederli. Infatti. Vabbè, chissà, magari in un futuro prossimo li rifaranno rivedere. L'attrice però purtroppo è scomparsa nel 2004, giovanissima, all'età di 47 anni, probabilmente per una malattia, un aneurisma cerebrale. Tra i suoi successi quindi ricordiamo Self Control, che appunto abbiamo appena ascoltato, poi Touch, Over My Heart, The Best Of, e poi Branigham 1 e poi tanti altri. Quindi anche lei è una grande, grande artista, con questo Self Control che appunto ricordiamo è stato anche il successo del grande mitico Ruff, un nostro cantautore italiano del 1984, esattamente questa canzone. La prossima è carina, a me piace. Mi piace parecchio questa canzone, perché proprio sì, mi proprio viene voglia di ballarla. E allora su, facciamo quattro salti con Other Way, What Is Love. Oh, La musica più bella di tutti i tempi è su CRM con Jerry e Tony. Canzone in programma per oggi, per questa domenica sera, con i mitici anni 70 80 90. Speriamo di essere stati, di avervi mantenuto compagnia con questa musica, con questo ritorno, appunto, come dico io, al passato. Sì, infatti ricordiamo l'appuntamento con i mitici anni, infatti a domenica prossima sempre a partire dalle ore 20 sino alle 22, sì. con Jerry e Tony. E io poi naturalmente devo ricordare il mio appuntamento, ricordo l'appuntamento insieme a me, insieme a Jerry, con Semplicemente Insieme. Domani anche ci sarà Giuseppe con me, quindi mi raccomando, non perdete questo appuntamento. Avremo, sì, tante, e poi tra